Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Anche oggi, come sempre, andremo avanti fino alle 21.30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane. Anche oggi 15 gennaio 2026 e ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band direttamente dalla Repubblica Ceca. Loro sono gli Human Fault, band che si è formata all'incirca 10 anni fa, e questo è il loro album datato 2020 che non vi leggo il titolo onde evitare brutte figure, vabbè, magari per me è la norma. Comunque Human Fault, Repubblica Ceca. We'll be right back. proprio chi vieni. Sì, un saluto anche da questa parte dello sgabbiotto della radio. E allora oggi, come preannunciato lo scorso giovedì, affronteremo questo articolo alle radici della guerra automatica, appunti per una genealogia dell'intelligenza artificiale, che è questo contributo molto interessante che è stato pubblicato sul terzo numero di Disfare, un contributo curato dal collettivo Terra e Libertà di Rovereto. E oltre a proporre così queste letture, riflessioni insomma su questo argomento, e cioè appunto l'intelligenza artificiale utilizzata per scopi bellicisti, faremo anche un po' una panoramica su tutti così le campagne, diciamo, di repressione che colpiscono anche direttamente qua sul nostro territorio. E per chi ha ricevuto la promo, abbiamo scritto appunto rompere il silenzio sui colpevoli di Palestina. In verità noi qua non teniamo mai silenzio sui colpevoli di Palestina, ma insomma un po' l'intento era quello di approfondire insomma le varie situazioni dei prigionieri palestinesi della diaspora che si trovano qui in Italia, che sono stati appunto incarcerati o comunque colpiti dalla repressione. Ricordo che domani, che è il 16 gennaio, all'Aquila ci sarà un presidio nazionale davanti al tribunale, appunto, in quanto domani probabilmente c'è un'udienza per Anan, Ali e Mansour, probabilmente ci sarà anche la sentenza. Insomma, ci sono poi diverse iniziative tra domani e sabato, sempre in solidarietà appunto con i prigionieri palestinesi e anche con tutti quelli, anche con i solidali, diciamo, che comunque sono colpiti in tutta Italia dalla repressione, e vedremo anche qua da noi. E niente, ancora un momento di musica e poi partiamo con l'articolo di Disfare. Eccoci qua di nuovo. Allora, che cosa si sono, perché hanno scritto questo contributo appunto sulle radici dell'intelligenza artificiale, cioè della guerra automatica fatta attraverso l'intelligenza artificiale, le compagne e compagni di Terra e Libertà? E il loro intento era quello di rintracciare, appunto, a partire da Gaza e dalla Palestina, alcuni dei fili storici che legano l'intelligenza artificiale al campo di battaglia e ad un progetto di militarizzazione del mondo che si fa forma di governo anche in tempo di pace. E l'articolo è molto complesso, diciamo, molto articolato, appunto, e si parte dagli anni 30, fine anni 30, per arrivare all'oggi. E allora, appunto, l'intelligenza artificiale è esplosa, ci dicono le compagne e compagni, con la rivoluzione delle reti neurali profonde, e siamo intorno al 2012. Allora, che cosa sono le reti neurali profonde? Io sono andata a cercare, perché sono abbastanza profana di queste robe, ma insomma, per capire un po' meglio, sono modelli di apprendimento automatico che riconoscono schemi complessi in modo simile alla mente umana. Questi modelli imitano il modo in cui il cervello umano elabora le informazioni. Allora, diversamente dagli algoritmi tradizionali, che seguono regole predefinite, quindi sono più schematici, hanno degli automatismi, insomma, questi modelli sono più complessi e possono apprendere schemi dei dati e fare previsioni basate su esperienze precedenti, diciamo sul modello del comportamento umano da questo punto di vista. Quindi c'è questo discorso dell'imitazione, no? Dell'apprendimento attraverso imitazione, e quindi anche poi ci torneremo su dopo, dell'addestramento, diciamo, dell'intelligenza artificiale nell'interazione con l'umano. Ma partiamo appunto dall'analisi un po' storica che questo articolo ci propone. Allora, arriviamo a 70 anni fa. Il matematico e informatico inglese Alan Turing risolve il codice Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale. Praticamente il codice Enigma era stato inventato, insomma, dai nazisti, dal governo nazista nel 1932, e praticamente era una macchina elettromeccanica di cifratura a rotore che all'origine era questa macchina elettromeccanica di cifratura a rotore, doveva tutelare i brevetti e i segreti industriali. Chiaramente viene utilizzato in maniera a scopo, insomma, di sicurezza militare dall'esercito, dai nazisti, dalla Wehrmacht, sì, dallo Stato nazista. Allora, questo Alan Turing viene assoldato nel 1939 dai servizi segreti britannici e svela questo enigma, questo codice enigma, e quindi riesce a leggere, no? I messaggi cifrati, insomma, crittografati, utilizzati attraverso questo sistema. Allora, nell'articolo si dice, appunto, questo Alan Turing pose le domande, no? Risolvendo questo enigma, questo codice enigma, pone questa domanda: ma le macchine possono pensare? E questa domanda viene ripresa in un testo recente, cioè del 2021, che si intitola The Human Machine Team, che è un testo che viene firmato con lo pseudonimo di Brigadier General J.S. comunque è un libro, appunto, che compare, viene pubblicato su Amazon in maniera anonima con questo pseudonimo, che propone un libro che propone una visione sinergica del rapporto tra intelligenza umana e artificiale, il cui modello è l'avrutta, letteralmente amicizia. Questo termine avrutta è un termine che indica un approccio al Talmud, quindi alle forme di conoscenza della cultura ebraica. E specificamente questa amicizia, questa avruta, presuppone una relazione stretta, un dialogo che però attraverso il quale si fonda l'apprendimento tra due discenti, quindi tra due scolari, due studenti, i quali, appunto, mettono in atto questa forma di apprendimento attraverso il dialogo, attraverso il relazionale, quindi. Solo che, appunto, questo modello che presuppone la presenza di una coppia di studenti che discute insieme un testo condiviso, appunto, in questo testo E questa frutta avviene tra un essere umano e la macchina. Lo scopo di questa amicizia, che integra l'uomo e la macchina, sarebbe quello di rivoluzionare la guerra moderna tramite la generazione automatica di obiettivi militari, la sorveglianza in tempo reale delle forze nemiche, la creazione di aree smart protette da droni e robot e il controllo dell'opinione pubblica con campagne di informazione mirate. Quindi questa interazione, questa avrutta tra essere umano e macchina serve appunto fondamentalmente ad addestrare la macchina per generare automaticamente questi obiettivi militari. Difatti nella guerra contemporanea ha una grande importanza, una grande disponibilità di target, no, da colpire, appunto, come abbiamo visto, insomma, come stiamo vedendo, da colpire indiscriminatamente anche, no, perché comunque conta molto il numero. Allora, ci dice questo articolo ancora, la squadra uomo-macchina può intervenire permettendo la generazione di target in maniera dinamica e su scala massiva. Però che cosa succede? Nell'aprile 2024 l'indirizzo di posta elettronica con cui il libro era stato pubblicato anonimamente su Amazon permette di risalire l'account di Yossi Sariel, che si rivela essere il capo dell'unità 8200, che sarebbe il corpo d'élite di guerra cibernetica dell'IDF, appunto dell'esercito israeliano. Allora, questa unità 8200 è responsabile di operazioni clandestine, intercettazioni, intelligence e sorveglianza di massa dei palestinesi. Molti dei soldati giovanissimi che la compongono continuano la loro carriera fondando start-up o scalando le vette della Silicon Valley. L'identità di questo Yossi Sariel, di questo capo, Cione, che era protetta da segreto di Stato, viene rivelata però da un errore da principianti, quindi super mega esperti nella guerra cibernetica, però fanno questo errore, una svista, e quindi viene rivelato il nome di questo qua, che doveva essere appunto rimanere segreto. E però appunto in questa nota dell'articolo ci dicono i compagni nulla in confronto all'incapacità di prevenire l'attacco del 7 ottobre, ma questo è un altro discorso. Ma comunque questa incapacità di prevenire l'attacco del 7 ottobre nel 2024 porta Sariel, Yossi Sariel, a dare le dimissioni. Allora, questo lavoro d'inchiesta, insomma, che rende pubblica l'identità di questo autore del libro The Human Machine Team e appunto capo della unità 8200, è questa inchiesta, è questo per prima, insomma, denuncia il fatto che i bombardamenti israeliani dopo il 7 ottobre sono stati affidati a sistemi di intelligenza artificiale, proprio come quelli descritti nel libro. Sariel, infatti, tramite l'unità 8200 è stato fautore di una sorveglianza generalizzata dei palestinesi e ha accelerato e guidato l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle operazioni militari. Ricordiamo appunto i tre sistemi Absora, Vangelo, Lavender e URS Daddy. E Absora e Lavender, algoritmi per la generazione dei bersagli, Lavender per i bersagli umani, Absora per gli edifici, URS Daddy invece questo sistema che stabilisce quando il bersaglio, che viene selezionato unicamente sulla base di correlazioni statistiche analizzate dagli algoritmi, torna alla sua residenza, in modo da sterminare, insomma, in maniera più quanto più persone viventi possibili. Ok, magari facciamo un attimo una pausa e poi proseguiamo. So infinite, feelings that you're wrong. Ok, torniamo all'intelligenza artificiale alla base della guerra automatica. Allora, siamo partiti dalla Seconda Guerra Mondiale, praticamente, da questa decifrazione, anzi, prima, sì, dalla fine degli anni 30, dal 39, insomma, quando Alan Turing riesce a decrittografare il codice Enigma dei nazisti. Abbiamo parlato appunto del 2021, quindi dell'IDF e degli esperti cibernetici dell'IDF contro il popolo palestinese. Ritorniamo agli anni 60 e parlando sempre di questo discorso della Vruta, quindi dell'amicizia, del sodalizio, diciamo, però non tra soggetti umani, ma tra pari umani, ma tra umano e macchina. Allora, continuando a leggere dall'articolo, è il 1960 quando Joseph Licklider, psicologo informatico vicino ai circoli cibernetici, pubblicava un articolo dal titolo Man Computer Symbiosis, in cui preconizzava uno stretto accoppiamento fra umani e computer. Ecco, secondo la metafora scelta da questo Licklider, che è una metafora antesignana laica della Vruta di Sariel, l'uomo avrebbe potuto interagire e collaborare con un computer nello stesso modo in cui si ragiona con un collega la cui competenza integra la propria. Questo Licklider praticamente diventa direttore nel 62, diventa direttore dell'ARPA, che poi verrà denominata DARPA, quindi entra insomma a pesce per i progetti speciali della difesa. Esatto, quindi entra in bomba, insomma, nel discorso della militare. E allora, dunque, l'atto di nascita ufficiale dell'intelligenza artificiale risaliva pochi anni prima. Questo matematico tal John McCarthy coniò l'espressione per un soggiorno di ricerca che nell'estate del 56 riunì una decina di scienziati, inclusi alcuni dei futuri padri dell'intelligenza artificiale, intorno all'idea che ogni aspetto dell'apprendimento o ogni altra caratteristica dell'intelligenza possa in linea di principio essere descritta così precisamente da poter essere simulata in una macchina. Sponsor di questo convegno del 1956 era proprio la Marina Militare statunitense, ma si può dire, insomma, che i primi 20 anni dell'intelligenza artificiale sono completamente dipendenti dai massicci finanziamenti delle varie agenzie militari, Marina Militare e Pentagono, e poi appunto soprattutto dall'ARPA, in seguito DARPA. Ecco, poi insomma, questo articolo ci illustra i due approcci fondamentali, insomma, del campo dell'intelligenza artificiale: quello connessionista e quello simbolico. Allora, quello connessionista è quello che vede l'intelligenza come un processo di auto-organizzazione e adattamento all'ambiente esterno, ed è quello che si è affermato, diciamo, recentemente, mentre l'approccio simbolico interpreta l'intelligenza come una procedura di manipolazione di simboli replicabile digitalmente. E all'inizio, diciamo, seguendo questa traccia genealogica, all'inizio si afferma l'approccio simbolico, però poi praticamente dagli anni, a partire dagli anni 90 questo approccio simbolico viene abbandonato e invece si afferma l'approccio connessionista. Allora, sì, perché cioè, se vi ricordate in puntate precedenti avevamo letto un articolo del diciamo di Strix, no? Questo approccio praticamente algebrico, diciamo, alla logica era diciamo così, era lo stesso imitativo ma estremamente formale, no? Cercava di trovare, cioè di era un po' troppo rigido, non era adattabile alla come si chiama, ai contesti, ecco, tutto qua era formalistico. Se avete presente quando a scuola insomma si fanno la teoria degli insiemi e sti affari, ecco, che sono così un po' astratti. Ecco, infatti i cibernetici, secondo i cibernetici, appunto meno formali, a guidare l'auto-organizzazione è il principio di retroazione, il feedback. L'oggetto di studio non è tanto il funzionamento interno degli organismi, quanto le relazioni e i flussi di informazione fra soggetti opachi. La cibernetica arriva ad affermare che il comportamento umano non differisce in modo sostanziale dall'autoregolazione delle macchine cibernetiche, in quanto entrambi si basano sul costante scambio di informazioni con l'ambiente mediato dalla retroazione. E durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è questo esempio, Norbert Wiener, già matematico di spicco al MIT e futuro patrono della cibernetica, intraprende un lavoro teorico e pratico per migliorare radicalmente i sistemi di puntamento antiaereo. Nell'osservare l'aereo nemico dal mirino dell'artiglieria antiaerea, il pilota nemico e il suo aereo si fondono in un'unica entità, un'unica macchina che si autoregola. E quindi in questo sguardo militare emerge questa concezione servomeccanica del nemico. Allora, in questo approccio connessionista e quindi cibernetico porta avanti questa elisione dei confini tra umano e macchina, e proprio questa elisione dei confini tra l'umano e la macchina nasce sul campo di battaglia. Il nemico uomo-macchina è il primo prototipo del cyborg. E arriviamo, no, siamo sempre lì, intorno agli anni 60, c'è questo Perceptron, che è una, come dire, un progetto, insomma, sempre di rete neurale statistica, e, inventato, insomma, elaborato da questo Rosenblatt. E allora, caratteristica di questo Perceptron è la sua capacità di adattamento. Ecco appunto che arriviamo al discorso dell'adattamento e dell'addestramento, cioè le connessioni fra i neuroni vengono modulate in una procedura di addestramento che permette alla rete di imparare dai dati a distinguere correttamente i pattern e i modelli. Quindi la nuova macchina, questa nuova macchina pensante, era finanziata dalla Marina. Allora il Perceptron, che è un archetipo delle moderne intelligenze artificiali, nasce dunque con lo stesso obiettivo dei sistemi israeliani come la Vender Absora, cioè la produzione automatica di obiettivi bellici. E, allora, ci dicono, proseguendo in questo articolo, l'articolo, come dicevo prima, è estremamente è lungo e anche molto elaborato, quindi ribadiamo l'invito a leggerlo insomma per intero nel periodico Disfare numero 3, come peraltro tutti gli altri articoli interessanti, e Disfare lo trovate anche a Udine allo spazio autogestito di Via De Rubeis. E ci dicono ancora, appunto, la breve parentesi civile, perché per una certa fase, appunto, la Silicon Valley era un po' restia all'applicazione militare, insomma, dell'intelligenza artificiale. Anche, vabbè, c'erano stati anche alcuni tecnici, ad esempio di Google, che avevano, sì, lavoratori, insomma, che avevano, che così opponevano resistenza a questo utilizzo militare. Però ci dicono, la breve parentesi civile, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale a un certo punto giunge bruscamente al termine. Il riavvicinamento fra militari e Silicon Valley era già stato promosso fra il 2015 e il 2017, e, però appunto in quegli anni, come dicevo prima, c'era ancora qualche polemica su queste partecipazioni, però in seguito, insomma, e adesso in maniera dirompente, col ritorno di Trump alla Casa Bianca, la Silicon Valley ha rotto ogni indugio e ha iniziato a firmare contratti milionari con il Dipartimento della Difesa. E vabbè, e qua insomma ci sono tutte. Allora, vediamo ancora un po' quello che dice questo Yossi Sariel, questo capo della, appunto delle sezioni esperte di intelligenza artificiale dell'esercito israeliano. Nel suo libro suggerisce la creazione di un modello che possa identificare come bersagli individui che sono in un gruppo WhatsApp, sto citando dal libro, insieme a un membro di Hezbollah, individui che cambiano telefono cellulare ogni qualche mese, individui che cambiano spesso residenza. Non si tratta quindi di stabilire tramite un lavoro di intelligence i rapporti reali di affiliazione, ma di determinare la probabilità che un individuo appartenga all'organizzazione sulla base di un'analisi puramente statistica dei suoi comportamenti. Quindi un approccio basato sull'analisi automatizzata di dati, in buona parte prodotti dagli smartphone. È la colonna portante dell'economia dei dati. Quindi possiamo dire che il consumatore moderno è fin dall'origine un soggetto militarizzato, nonostante le forme di sorveglianza e controllo rese possibili da questi sistemi nei paesi occidentali siano per buona parte, ma non sempre, non letali. Questa trasformazione di tutto il campo, scusate, di tutto lo spazio in campo di battaglia potenziale è stata il risultato di una convergenza di tecnologie informatiche, geografiche e satellitari che ha mobilitato una larga intesa fra i mondi accademico, governativo, militare e industriale. E appunto è su queste basi tecnologiche che prenderà forma la dottrina dell'attacco basato sull'impronta di un individuo in termini di metadati, già teorizzata dalla CIA nella War on Terror e dispiegatasi a Gaza nella sua forma più devastante. Ecco, poi questo articolo continua demolendo il mito della precisione, cioè questo mito insomma della guerra automatizzata per cui ci sarebbero le bombe intelligenti, appunto. Ci dicono che raggiunge un primo apice nella guerra del Golfo, dell'Iraq, no, che riguardava i bombardamenti in Iraq, questa roba delle bombe intelligenti che in realtà quindi che vanno modo americano, un modo pulito di fare la guerra da parte degli americani, pulito ed efficace appunto, e in realtà le bombe cosiddette intelligenti erano solamente il 10%, quindi sì, una roba sì, indifferente. E su questa roba della precisione i compagni che hanno appunto redatto l'articolo ritornano addirittura alla guerra nel Vietnam, quindi 1955-75, e ci dicono che appunto questa imprecisione ha un precedente importante nel campo di battaglia elettronico. Il sistema di sensori acustici, sismici e chimici dispiegato in Vietnam dall'esercito statunitense, quando i sensori disseminati lungo il sentiero di Ho Chi Minh rilevavano un segnale, gli aerei venivano automaticamente indirizzati verso l'obiettivo e anche il rilascio delle bombe poteva essere avviato da remoto. Nella maggior parte dei casi nessun soldato americano vedeva effettivamente il bersaglio. Rivolgendosi al Congresso nel 1970, un senatore osservò che uno dei problemi maggiori del campo di battaglia elettronico è che potrebbe essere un'arma indiscriminata. I sensori non rilevano la differenza fra soldati e donne e bambini. Anche a Gaza questa, ma comunque chiaramente è intenzionale questa mancanza di precisione, in quanto ci si appunto l'umano si affida a questi algoritmi, non verifica quasi, cioè anche a Gaza negli attacchi insomma, ad esempio, verificavano dal suono della voce che verificano anche che il suono della voce del bersaglio fosse di sesso maschile e non femminile, ma anche gli errori vengono trattati in modo statistico, cioè il protocollo praticamente era questo, è questo. Anche se non sai per certo che la macchina ha ragione o no, sai che statisticamente funziona, quindi vai avanti. Per tornare un momento, se no ci allontaniamo, l'esempio del Vietnam, Ovviamente il sentiero di Ho Chi Minh che cos'era? Era un percorso noto solo ai guerriglieri vietnamiti, serviva a collegare le postazioni praticamente dei guerriglieri con i rifornimenti, diciamo, di armi e di viveri dalla Cina sostanzialmente, ecco. E sì, gli Stati Uniti tendevano intenzionati a eliminare questo collegamento, ma non sono mai riusciti, anzi comunque bombardavano come sempre a caso. Infatti, appunto, però è importante anche dire questo, che non ci sono mai riusciti, perché appunto lo spostamento di mezzi lungo il sentiero di Ho Chi Minh non ha funzionato, ma d'altro canto anche la sorveglianza generalizzata di tutti i palestinesi spinta dall'unità 8200 non è riuscita a impedire l'attacco del 7 ottobre, no? Questo, quindi, per quanto questi strumenti vengano perfezionati, l'elemento umano, cioè della resistenza umana e della rivolta umana e della liberazione umana, non viene distrutta, magari viene massacrata in maniera terribile, ma non viene mai spenta del tutto, insomma. E quindi questo è un po' sì, anche, diciamo, la via di uscita, insomma, che questo articolo ci dà, cioè non è solamente un'analisi, è interessante perché analizza in maniera veramente precisissima, però anche sì, lascia, cioè ci ridà, cioè ci riconferma la consapevolezza che comunque non si, le rivolte, insomma, il desiderio di libertà e la lotta per la libertà non viene annientata. E ecco, infatti, diciamo, la chiusura dell'articolo dice proprio questo. E, cioè, nonostante appunto questo terrore che viene diffuso, parliamo della Palestina, in modo da annichilire l'opposizione, un terrore che, anche se in maniera chiaramente non paragonabile, diversa, però questa cosa del terrore viene sempre di più, prende piede, insomma, anche in Occidente, non solamente, e anche nelle cosiddette, insomma, democrazie, nelle democrazie autoritarie, come possiamo chiamarle. E appunto loro ci dicono, in ogni caso, per fortuna, come ha dimostrato la resistenza palestinese, chi sogna di incatenare il mondo alla disciplina degli algoritmi può ancora essere costretto a bruschi risvegli. Quindi non è mai, mai, insomma, se si lotta, mai tutto è perduto, ecco. E essendo tutto ciò che abbiamo, questo, insomma, è il messaggio un po' che si cerca di portare avanti a parole, possibilmente con la vita. Come si diceva, noi andiamo avanti su questo invece percorso qui stasera sul come si chiama, non dimenticare il gli accusati, insomma i colpevoli, i cosiddetti colpevoli di Palestina. E, facciamo così una digressione, poi torneremo insomma a bomba sul ma insomma sulle anche questioni locali qui della nostra zona, e facciamo una digressione su un personaggio diciamo noto, Chef Rubio. Chef Rubio, non tutti sanno che è un solidale con la causa palestinese, non tutti sanno che non è più uno chef. Perché dico questo? Nel senso, è un personaggio che comunque andava in TV e molte persone anche così magari anziane che guardano la TV in prevalenza, no? Lo hanno visto, e io parlo per esperienza diretta, e lo hanno così, seguivano insomma il suo unti e bisunti, no? Questo programma dove lui sfidava le cucine insomma locali, no? Girava per l'Italia e poi anche camionisti in trattoria, soprattutto, ecco, soprattutto no, ma nel senso, insomma, magari nei nostri giri non tanto, ecco, però fuori dai nostri giri era conosciuto. A un certo punto, nel 2019, viene cacciato da questa la rete Discovery, no? Che comprende D-Max 9, eccetera, eccetera. Io non ho i miei profili social, non esistono, no? Chi sta parlando adesso non ha dei profili social, quindi io non conosco tutto il percorso dei social di Chef Rubio, perché Chef Rubio si chiama Gabriele Rubini, diciamo, ha una carriera come rugbista, no? Professionale. Un infortunio nel 2011, e quindi si riconverte, fa una scuola di alta cucina, si gira il mondo ovviamente per conto suo, e va diverse volte in Palestina, in Cisgiordania, e si riconverte, dicevo, alla cucina, alla gastronomia, si inventa questo lavoro, ecco, scrive libri che vengono stampati, che vengono acquistati, eccetera. Dicevo, nel 2019 viene cacciato da Discovery. Lui, questa storia io l'ho ricostruita, nel senso che più o meno, ripeto, non avendo i social nel dettaglio non l'avevo tanto messa insieme, però l'ho ricostruita da un compagno che si chiama Lait Marouf, che è un libanese, un giornalista libanese che ha un suo canale, diciamo YouTube, dove realizza vari servizi, diciamo, dalla strada, ecco, da un punto di vista di strada, e non poteva mancare anche Rubio, no? In questo compendio ha fatto un giro in Italia, questo Marouf. Ecco, io mi sono guardato il filmato dove appunto Rubio racconta progressivamente la sua presa di coscienza, nel senso che inizialmente lui aveva una dimensione sua di solidarietà appunto con questi, con la lotta dei palestinesi e delle palestinesi, ma più diciamo istintiva, ecco. Man mano che ha subito, cioè man mano che lui ha alzato il tiro, nel senso che ha cominciato ad andare ai cortei del 25 aprile a Roma, ha iniziato a contestare vivamente la brigata ebraica, ha iniziato a usare determinati termini e ha appunto alzato il tiro, ha usato tutti i suoi followers, no? Aveva milioni di followers su Instagram, eccetera. e li ha iniziati a utilizzare appunto per portare questa questione qui davanti a questo milione di gente che scrolla lo schermo dello smartphone. Ecco, quindi già dal 2017 lui racconta che fece questo post in risposta a Riccardo Di Segni, che è il presidente della comunità ebraica di Roma. Di Segni disse che i palestinesi sono la madre del terrorismo e andavano allontanati dal corteo del 25 aprile di Roma, e Rubbio gli rispose che con una frase delle sue: i terroristi hanno i carri armati, non la keffia, no? Appunto, seconda stagione del suo programma, gli capita di essere avvicinato da una funzionaria israeliana, no, nell'hotel dove stava lui con la sua troupe, e questa funzionaria gli propone di fare una puntata in Israele. Cioè, inizia a seguirla, nel senso che comincia a puntarlo e lo provoca a dire: vieni a fare una puntata in Israele, così mostri, puoi far vedere la nostra cucina, no? E lui le risponde a bruciapelo che non esiste nessuna cucina israeliana, che l'hanno rubata agli arabi, no? In quel livello non succede ancora niente, lui tiene il suo lavoro, ma ha sentito, insomma, delle lamentele dalla TV, perché la funzionaria è andata a Discovery, si è lamentata, no? Ha riferito. Come dicevo, poi c'è l'episodio del 2017 e si arriva al 2019, appunto, con un ulteriore, insomma, varie ospitate di vari posti. Gli arriva una denuncia a questo punto dalla comunità ebraica di Treviso per istigazione all'odio razziale. Arriviamo appunto al 7 ottobre, nel frattempo, appunto, dicevo, ha perso il lavoro in TV e progressivamente tutti quei milioni di followers si stanno dileguando. Nel marzo 2024 si apre una indagine a Procura di Roma per istigazione all'odio razziale e diffamazione per propaganda antisemita. Infatti, appunto, ecco, era una denuncia della comunità ebraica di Roma. Sì, siamo nel 2024, insomma. Rubbio si reca in Argentina, a Cordoba, per iniziare una specie di reality dove appunto istruisce i persone che sono in strada, le istruisce a cucinare, preparare dei piatti, no? Arriva, insomma, direttamente dal Ministero degli Esteri vengono rimossi i video di Rubbio, perché semplicemente indossava una t-shirt con la bandiera palestinese. Durante un presidio a Roma, siamo sempre nel 24, o nel 25, mi viene un dubbio. Comunque, il cosa cruciale è il 25 aprile 24, nuova contestazione alla brigata ebraica. E tra l'altro, dentro questa brigata ebraica ci sono vari personaggi noti e meno noti, tra i quali Davide Parenzo e elementi anche della Lega Ebraica di Difesa, che è un'organizzazione sionista di estrema destra, islamofobica. Scusate un momento che devo verificare. Nel 24, sì, era il 15 maggio 24, subisce un'aggressione, viene aggredito da più elementi, insomma, travisati, tagliano i cavi del cancello di casa della sua famiglia, lo bloccano, diciamo, la sua automobile, lo pedinano, insomma, sanno che in quel momento andava a casa della sua famiglia, bloccano la macchina, spaccano i vetri e lo picchiano quasi a morte, insomma, quasi sviene. Poi arriva in ospedale, lui racconta che l'anestesista del pronto soccorso, che gli chiede cosa è successo, lui risponde che queste cose succedono finché ci sono i sionisti, no? In giro. E questa anestesista lo guarda in maniera gelida e poi si allontana. Arriva un'altra invece dottoressa che lo prende da parte e gli dice che quella dottoressa, quella anestesista, era una ebrea sionista radicale e avrebbe potuto attentare alla sua vita, era meglio cambiare dottore, ecco. Tra l'altro l'interlocutore di Rubio dice che questa cosa è normale in Palestina, naturalmente i medici israeliani non assistono i pazienti palestinesi e, oltre a fare una carognata, tradiscono anche il giuramento di Ippocrate, no? E per arrivare alla scorsa estate, ecco, nel 25, le robe, chiaramente c'è stata un'inchiesta farsa su questa aggressione, dicono che è lui che si è inventato tutto, che è un mitomane, che non esistono, insomma, non esiste gente organizzata in Italia a servizio di Israele che picchia le persone scomode, e è andata a finire in niente l'indagine. Al contrario, è stata aperta un'indagine, ulteriori denunce e un'indagine perché altra polemica, perché in questa fase adesso da cuoco a, cioè da rugbista a cuoco a personaggio TV a influencer, avendo avuto il blocco sui social, adesso si è un po' ritirato. Rubio è tornato, diciamo, a livello da cui è partito e sta, insomma, si dedica alla scultura di materiali in legno, materiali di recupero, e aveva fotografato un coltello col manico di legno d'ulivo e ha fatto delle allusioni al fatto che l'ulivo è una pianta sacra per la religione ebraica, e ovviamente una polemica, e per questo appunto è sotto indagine, ha subito una perquisizione e un'ulteriore indagine, una serie di denunce. Sì, io non so, adesso non è non è una persona X, nel senso che è una persona comunque, no, un VIP, un noto, no, che ha detto tante anche cose non condivisibili, ma non queste, insomma, sulla Palestina, altre questioni giornalistiche, adesso non mi dilungo, ma in questo momento, insomma, è completamente isolato, non ha più il suo ruolo, il suo posto, insomma, non lo avrà probabilmente più, no? Quello che occupava nei media, e in più subisce tutta una serie di azioni repressive. Quello che è importante del sua testimonianza è che comunque lui appunto è passato da un approccio così naif, diciamo, di solidarietà a rugby, per dire, no? Bandiere e così, toppe, tatuaggi, queste cose così esteriori. Quando ha capito che non lo seguivano questi così che hanno simpatia superficiale e basta per lui, quando ha capito ha iniziato a istruirsi, cioè a approfondire le cose, e man mano che le approfondiva è anche andato più a fondo con i suoi attacchi, ecco, verbali, no? Per questo che e man mano, insomma, anche ha dovuto attrezzarsi ovviamente per la difesa, per l'assistenza legale. Quindi solidarietà a Rubio, ecco. I don't care that you're a Christian. I don't care what the Bible says. I don't believe in Christianity, which means that you do not get to dictate the way I live my life based on your religion. I don't care about your goddamn religion. Well, the Bible says this in this chapter, in this verse. I don't care. Control any way they can get. Funding your churches, giving money to the rich. They want control any way they can get. Profit of God and the rich. Sì, allora, all'inizio della trasmissione si diceva che è importante non dimenticare le responsabilità dello Stato italiano e dell'apparato industriale, bellico, accademico nel sostenere l'occupazione e lo sterminio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele, che è importante appunto solidarizzare e rimanere uniti con tutti i palestinesi della diaspora perseguitati dallo Stato italiano. E però anche non tacere, cioè non fare in modo che non venga silenziato anche l'attacco al movimento solidale con la Palestina, con la resistenza palestinese da parte appunto dello Stato italiano. E a questo proposito abbiamo ospite un compagno di Trieste che ci racconta che cosa è successo stamane in quel di Trieste. Ci sei? Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Allora, sappiamo di questa operazione repressiva delle 10 perquisizioni, vuoi dirci? Ma sì, in sostanza questa mattina c'è stato un giro di perquisizioni ai danni di 10 compagni e compagni, tra le 6 e le 7 del mattino. Uh-huh. Personale della DIOS, principalmente della Questura di Trieste, si è presentata sotto casa di queste compagne e compagni per appunto un mandato di perquisizione che era stato emesso dalla PM Bacher per un'indagine che si riferisce a dei fatti di piazza durante quel enorme momento di mobilitazione che si era verificato tra settembre e ottobre. Quindi sono entrati nelle varie case alla ricerca di indumenti e altri oggetti personali atti al riconoscimento di quelli che avevano individuato come responsabili dei fatti di piazza, con delle accuse che vanno dalla resistenza pubblica ufficiale al danneggiamento, alla manifestazione non autorizzata e alla violenza privata. E tutti i fatti che ovviamente vengono, come dire, circoscritti dalla PM, dalla Digos e dal codice penale e che in realtà riguardavano tutte quelle forme, quelle pratiche che erano state messe in campo dal movimento di solidarietà al popolo palestinese in quel periodo, e che avevano visto a Trieste iniziative, diciamo, di ogni tipo, tra l'altro con una grande costanza, anche in virtù di quello che succedeva con la Global Suburban Flotilla, che aveva un po' dettato, come dire, anche un po' i ritmi di lotta. Ma al di là di quello, in quelle settimane erano stati messi in campo tutta una serie di pratiche di blocco, principalmente di presidio e poi anche di corteo, spesso in maniera spontanea, non organizzata, diciamo non preavvisata, nel senso che la gravità di quanto succedeva, cioè il genocidio in corso, aveva dettato, diciamo, dei tempi e dei modi del tutto straordinari di lotta. E quindi in quest'ambito qua, a Trieste come in tantissime altre città, ci ricordiamo ancora le immagini, c'erano stati blocchi soprattutto dei varchi portuali, ma non solo, anche molti cortei, e uno di questi si era verificato il 2 ottobre, cioè il giorno prima di quello che sarebbe poi stato il secondo sciopero generale del 3 ottobre, in concomitanza con l'attacco a tutti gli effetti, l'ultimo, quello definitivo alla flottiglia. E questo aveva richiamato in piazza, diciamo in maniera molto spontanea, centinaia di persone che si erano messe in corteo per la città di Trieste, e questo corteo poi aveva continuato ad ingrossarsi e a raccogliere moltissime adesioni fino a raggiungere una notevole dimensione. Si era mosso per la città ed era andato poi a un certo punto in direzione della stazione di Trieste per provare a effettuare un'occupazione, un blocco anche della stazione di Trieste, come d'altronde avveniva già da molto tempo. E nell'ambito appunto di questi fatti, di questi avvenimenti, erano successi vari fatti. Ovviamente le forze di sicurezza della repressione erano intervenute in quel caso, e quindi c'erano state tutta una serie di conseguenze. Per questi fatti di piazza, mi farebbe da dire i soliti fatti di piazza, nel senso che sono espressioni di rabbia, come anche espressioni, anche se magari in forme disorganizzate, quelle che erano le pratiche, gli obiettivi che il movimento si era dato, quindi quello di bloccare tutto, nel senso di bloccare la macchina e l'economia del genocidio, di cui l'Italia e buona parte dell'economia italiana era complice, ma anche di rompere in qualche modo la semplice normalità di fronte ad un genocidio in corso. Ebbene, per questi fatti qua abbiamo appunto scoperto, dopo queste perquisizioni con i conseguenti sequestri, che c'era un'inchiesta aperta. Quindi evidentemente la procura, probabilmente, immaginiamo ce ne siano anche altri di fascicoli, in questo caso specifico si è concentrata su quel corteo lì, che era stato molto grande, molto partecipato, quasi inaspettato per le forme con cui si era poi dato, e individuando una serie di reati, andando, come dire, a estrarre dal cesto una serie di persone e di azioni e di reati che gli vengono imputati, decidono appunto di colpire in questo modo quella grande espressione popolare, mi verrebbe da dire, che è stata la mobilitazione a sostegno della popolazione palestinese e della resistenza palestinese. Io aggiungerei solo un'ultima cosa, poi se volete possiamo anche parlare più a fondo, e cioè che in alcuni casi per le perquisizioni di questa mattina i reati contestati per alcune delle persone perquisite sono anche semplicemente il 18 TULPS, cioè la manifestazione mancata comunicazione praticamente dall'autorità, sì, no? Uh-huh. Esattamente, che è come sappiamo un reato abbastanza minimo, ecco, non di grande peso. Delle persone che sono imputate per questo reato hanno ricevuto la perquisizione in casa. Sì. È un salto di qualità, no? È un salto di qualità e mostra anche un po' la gravità dell'attacco repressivo che è in corso, che non riguarda chiaramente solo Trieste, ma riguarda tantissime altre città italiane, e a partire dai casi più noti. A quelli più piccoli che si sono verificati in città più piccole di cui magari si sa di meno, fatto sta che chiaramente l'operazione puzza di vendetta, sicuramente di complicità, mi verrebbe anche da dire, da aggiungere per come si è data, ecco. Gli media di regime dicono che hanno trovato gli indumenti che cercavano, quindi hanno le prove. I media di regime dicono che hanno le prove, mi pare di capire che ci sia stato poi un comunicato della questura per fare un po' di chiarezza, così diciamo noi, gli indumenti che hanno trovato apparentemente sarebbero giacche, felpe, scaldacollo, addirittura delle kefie, cioè persone che erano solidali con il popolo palestinese avevano in casa loro delle kefie. Che strano, no? E quindi questi sarebbero gli effetti e gli indumenti che sono stati trovati nell'ambito di queste perquisizioni, cose che io credo che in qualunque caso sarebbero, cioè chiunque avessero individuato tra i 60 milioni di cittadini e non italiani avrebbero trovato quello che cercavano, perché alla fine erano indumenti, quindi sì, effettivamente l'hanno trovato, ma diciamo che il gioco era abbastanza facile in questo caso, e probabilmente non era, perché torniamo alla questione dei 18 TULPS, cioè per investigare se c'è da fare inchiesta su un 18 TULPS, per quanto mi riguarda no, però se proprio devono, non credo che delle perquisizioni che vanno a individuare dei capi d'abbigliamento siano delle prove schiaccianti per quanto riguarda un 18 TULPS, cioè l'aver promosso, organizzato una manifestazione che non era stata preavvisata, e quindi chiaramente si tratta anche di molto altro, si tratta, io aggiungerei anche di una prassi della PM Bacher, perché non è la prima volta che accadono perquisizioni di questo tipo a Trieste, il cui mandato viene spiccato da questa persona qua, quindi evidentemente c'ha la perquisizione molto facile e se la gioca come se fosse una caramellina, quando invece va a svegliare persone alle 6 del mattino sono pratiche che seminano il terrore, queste qua, no? E terrorizzano, sono estremamente invasive, se non terrorizzano comunque sono traumatiche, no? Ti lasciano qualcosa, non è una roba che ti passa subito, sì. Esatto, e la facilità con cui vengono disposte è veramente a dei livelli fuori da... Ma difatti, quello che dicevi anche comunque della vendetta, secondo me c'è anche una sorta di rabbia da parte delle forze della repressione statale rispetto al fatto che queste mobilitazioni spontanee sono riuscite, cioè sono state partecipate, efficaci, sentite, e quindi c'è come una specie di rivalsa assolutamente veramente contro anche la spontaneità della rivolta popolare, della solidarietà e anche della messa in discussione generale, insomma, del sistema anche qua, appunto. Sì, sì, a maggior ragione per il tipo di piazze che sono state, cioè piazze enormi che hanno mostrato diversi livelli, un ampio spettro di espressione di, certo, quello che non solo era il malcontento, ma anche la necessità di fare qualcosa, no? C'è stato, sì, proprio un momento che ha rotto, diciamo, quella normalità che prevedeva che di fronte ad un genocidio ci si potesse indignare e che bastasse quell'afflato così indignazione. Sì, sì, e starsene a casa, insomma, invece, esatto, di scendere in strada. Invece di scendere in strada e fare qualcosa, e sì, fare qualcosa di concreto a partire da tutto quel mondo che di fatto rendeva possibile il genocidio, sì, dall'indifferenza alla sua economia, no? Comunque, appunto, lo Stato, diciamo, ha aspettato così un po' che questo grande movimento un po' si, anche fisiologicamente, diciamo, si affievolisse, per adesso arriva, sì. Infatti, a distanza di mesi arrivano le mazzate un po' in tutta Italia, no? Sì, boh, sì, vale la pena di ricordare anche i fogli di via da Ronchi per la manifestazione del 13 settembre, che pure quelli, anche, non ne abbiamo parlato molto, ma insomma anche lì ci sono almeno 15 fogli di via, no? E più altre robe che ancora non si sa, perché continuamente arrivano robe. Sì, sì, tra l'altro per un corteo che è stato molto, sì, partecipato, sì, molto importante, tra l'altro era qualche giorno, direi, prima di queste mobilitazioni di cui stiamo parlando. Sì, era il 13 adesso, settembre, sì, e quindi aveva avuto, come dire, anche il merito di individuare un responsabile diretto del genocidio, sì, e andarci sotto, sì, e sì, tutto sommato senza riuscire, come dire, a fare grandissime cose. Eppure per un semplice corteo arrivano, sì, decine, sì, di fogli di via anche pesantini. Sì, poi queste cose, appunto, questi metodi anche di circoscrivere rinchiudere la lotta, diciamo, impedire alle persone di andare nei luoghi dove poter svolgere le proteste, le mobilitazioni, no? Cioè è un metodo, è come una specie di imprigionamento nei territori, diciamo. Esattamente. Di confinamento, ecco, nei territori. Sì, insomma, è importante non rassegnarsi, appunto. No, assolutamente. Non è il nostro caso, mi sembra, ma comunque sì, di non lasciar perdere e di... No, anzi, raccontavo questi fatti. Ovviamente anche per dei motivi, come dire, di solidarietà, perché, certo, non si lascia indietro nessuno, perché le lotte non finiscono quando finiscono, ma poi spesso hanno anche delle conseguenze, ma anche per dire che evidentemente se arrivano così tante operazioni e queste cose qua, c'è stata un certo tipo di incisività, e probabilmente quella era anche la strada giusta. E le conseguenze effettive poi le vedremo nel concreto, e ce n'è una che va assolutamente evitata, e cioè quella, come dire, di spaventarsi, no? Sì, perché, infatti, terrorizzare è un po' l'obiettivo di un giro di perquisizioni di questo tipo, e andare avanti, insomma, su questa strada, ovviamente poi stando al fianco anche di chi è colpito. Sì. Staremo a vedere se effettivamente ci sarà una chiusura di indagini, che cosa comporterà, anche se ce ne saranno altre, perché, come vi dicevo all'inizio, c'è anche un po' il modo in cui agisce la repressione, però circoscrive dei fatti nell'ambito di settimane di mobilitazioni, no? Ecco. Chiaro. Così, niente. Grazie del racconto dettagliato, e ci si vede presto. Va bene, grazie a voi per lo spazio. Ciao, ciao. Buona serata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua, siamo un po' agli sgoccioli, ma non per questo quello che vado a dirvi è meno importante, perché è una chiamata di questa assemblea solidale con la Palestina, e contro la repressione, Udine e dintorni, per un presidio di protesta che si svolgerà a Udine dalle 10.30 di sabato 17 gennaio in Piazzale Chiavris, che è un luogo che si trova nella zona nord, diciamo vicino all'ospedale. Perché è stato fatto chiamato questo presidio? Perché sostanzialmente la stretta repressiva che è partita circa un anno fa con la conversione conversione in legge del cosiddetto pacchetto sicurezza, no? Di cui abbiamo parlato da questi microfoni diverse volte, si è arrivati appunto ora a un attacco diretto a ogni tipo di sostegno alla resistenza palestinese contro il movimento complessivo appunto pro-Palestina di tutto il territorio dello Stivale, appunto da parte delle autorità dello Stato, no? Italiano. Quindi questo è un primo punto. Secondo punto è che l'abbiamo già detto e ripetuto, che il venerdì 16 gennaio invece all'Aquila ci sarà l'ultima udienza, il procedimento è a carico di Anan, Yaesh, Ali e Mansour, tre palestinesi che per primi sono stati arrestati e imprigionati nelle carceri italiane per presunto terrorismo compiuto però fuori dal territorio nazionale cosiddetto, e c'è la possibilità che si arrivi anche alla sentenza, ma comunque per domani abbiamo già detto che c'è questo ci sarà questa presenza all'Aquila, insomma al tribunale, e quindi noi 17 qui a Udine riprenderemo anche questa questione, daremo spazio anche a questa vicenda. E in ultimo e non meno importante, anche tutta una serie di legami, connessioni tra quello che è stato compiuto dagli apparati israeliani in terra di Palestina da parte dell'apparato industriale bellico e anche ma poi anche finanziario, energetico, insomma tutti i complessi, appunto questi complessi appunto non solo del trasformativi, ecco, dell'industria, ma anche che coinvolgono anche i saperi eccetera eccetera, i trasferimenti di capitali eccetera, appunto a sostegno, dicevamo prima, dello sterminio dei palestinesi da parte dello Stato israeliano. Sarà una tappa, insomma, per rilanciare questa lotta e mostrare che non ci si fa intimidire per niente, non ci si lascia scompaginare, e quindi ecco un passo importante nel percorso, insomma, di lotta per la liberazione di tutte e di tutti, insomma, gli oppressi e gli sfruttati. Quindi ribadiamo, sabato 17 gennaio dalle ore 10:30, Udine, Piazzale Chiavris, lato giardini di Via Levat. Bene, sfumiamo questa band che stiamo ascoltando e che è una band Portland, scusate, dall'Oregon. Solitamente in Oregon ci sono decine di band, ma tutte da Portland, mentre queste sono invece di Eugene, che è un'altra cittadina appunto dell'Oregon. Comunque questo è un trio e si chiamano Woven. E appunto le lasciamo in sottofondo per ricordarvi che questa trasmissione, che è Jardins Magnetics, è giunta ormai al termine. Ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30, in diretta come sempre anche oggi 15 gennaio 2026, e come consuetudine vi ricordo i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, basta che mandate la mail a liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129 Trieste Centro 34 121 per quanto riguarda la forma cartacea. E poi questa trasmissione, ma anche tutte gli scorsi giovedì nei mesi passati, potete riascoltare andando su jardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora l'appuntamento al prossimo giovedì. Ricordo che potete riascoltarci domani anche in replica su due web radio, che sono alle ore 11 Radio Eustachio, oppure alle ore 17 su Radiazione. Bene, ciao a tutti, vi lascio con queste rotte Woven dall'album datato 2023, No Hope for a Better Past. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì. Black and white, doesn't that make you gray?